Beh, la stagione sarà, diciamo, abbastanza dura, perché alla fine, insomma, abbiamo degli avversari molto forti, il Saladino è partito subito alla stragrande, insomma, sarà difficile, diciamo, questo lo ammetto. Los Angeles è andato tutto bene, abbiamo lavorato moltissimo, abbiamo corso moltissimo, adesso dobbiamo lavorare per scaricare, insomma, diciamo, tutti i pesi che ho fatto durante il periodo che stavo lì e anche quando sono ritornato. Diciamo che la situazione si presuppone che diventerà abbastanza buona, insomma. Io c'ho, abbiamo ancora 4-5 mesi alla giornata in cui dovrò saltare, quindi c'è ancora molto da lavorare. Non lo so, io più che altro vedo me stesso sul podio più alto, perché è anche ora di vedermi. Quindi niente, io credo che sarà una lotta molto dura, questo lo suppongo, non sarà una passeggiata, mi sto allenando apposta per quello e vedremo, insomma, quello che si può fare.